alla Palestina, alla Nakba, a ciò che è successo il 15 maggio, quando una serie di straordinarie manifestazioni hanno per la prima volta intaccato un equilibrio che durava da quasi 40 anni, 37 per la precisione, soprattutto insomma in un sito abbastanza particolare, al centro anche di un conflitto molto lungo, protrattosi molto a lungo nel tempo, e cioè le alture del Golan, al centro appunto del conflitto, in particolare della guerra del 67. Proviamo a capire insomma qual è la situazione che si è venuta a determinare dopo quei fatti, proviamo a capire insomma quali popolazioni abitano questi luoghi, così cercando di ripassare in qualche modo anche qualche nozione di carattere storico che male non ci fa, per cercare di andare all'origine dei conflitti che si sono svolti in questa area, cercando di chiaramente anche capire quali sono stati poi gli sviluppi nel tempo e quali prospettive possono aprirsi oggi. Avevamo preparato anche una serie di collegamenti telefonici, vediamo un po' quali di questi insomma riusciremo a garantire, anche perché si tratta anche di collegamenti fatti con compagni in realtà che si trovano non in Italia. E dunque quello che è successo il 15 maggio insomma è stato già detto, migliaia di palestinesi hanno varcato un confine nel quale effettivamente diciamo c'era stata una situazione di tranquillità negli ultimi 37 anni, negli ultimi lunghissimi 37 anni, ma in cui diciamo i segni della guerra attraverso reticolati, checkpoint, bunker e campi minati più o meno insomma erano rimasti, proprio a segnare diciamo i contorni del paesaggio, le alture del Golan, parte chiaramente della Siria meridionale, furono occupate a partire dalla guerra del giugno 1967 dallo Stato di Israele. Diciamo che le alture erano state al centro di conflitti già in epoca passata, nel senso che fin dalla guerra del 48 proprio i siriani erano riusciti diciamo a controllare una possibile offensiva israeliana risalendo proprio le alture. Si tratta di diciamo un luogo molto importante da un punto di vista strategico, non tanto infatti per la presenza di gas naturali o risorse particolarmente importanti, sebbene poi in realtà delle risorse importanti risiedono anche lì, in particolare risorse idriche. Si tratta però di un punto particolarmente importante strategicamente dal punto di vista militare, perché da esso diciamo si ha un osservatorio privilegiato di tutto quello che ci sta attorno, un controllo quasi assoluto delle rive del Giordano, un controllo, un punto di osservazione molto importante anche per i territori siriani. Chiaramente insomma il luogo è stato utilizzato subito da Israele, questo nel 67, a partire dal 67, da un punto di vista strategico-militare, soprattutto attraverso l'installazione di potentissimi rilevamenti radar che da allora ad oggi hanno costituito un ottimo deterrente rispetto a una probabile guerra di tipo missilistico. C'è tra l'altro appunto anche il fatto che a partire dalle alture del Golan si controlla di fatto insomma il lago di Tiberiade, e rappresenta questo lago insomma rappresenta diciamo insieme alle acque del Giordano circa un terzo delle risorse idriche che sfrutta Israele. Ecco, dicevamo appunto che già nel 48 quindi era stato motivo di scontro il controllo di quella zona. I siriani però riuscirono a mantenerne il controllo anche per tutti gli anni 50, sebbene diciamo delle colonie si fossero già insediate dal 48 in poi. Scaramucce di frontiera hanno caratterizzato tutta la fase successiva fino appunto alla guerra del 67. Le forze israeliane, diciamo, presero di sorpresa quelle siriane e riuscirono a sfondare l'aviazione nemica prendendo appunto controllo delle alture del Golan. Ora, chi viveva insomma in quei luoghi? Vivevano principalmente comunità druse. I drusi insieme ai beduini erano considerati, diciamo, entità separate, chiaramente da un punto di vista religioso, parliamo di entità separate all'interno della Palestina storica. Ecco, i drusi in particolare, insomma, rappresentano una confessione religiosa interna all'Islam sciita, una confessione nata un millennio di anni fa, insomma, in Egitto. Dicevamo appunto, drusi e beduini erano considerati di fatto addirittura quasi due etnie separati, quasi non palestinesi, sostenevano addirittura degli storici decine di anni fa. Oggi si è riconosciuto che in realtà sono palestinesi pure loro, ma insomma vivevano come comunità distinte quasi anche dal punto di vista etnico. Con l'occupazione del 48 Israele ha tentato un processo di cooptazione per ambedue le comunità. I drusi abitavano sparpagliati in un po' ovunque, i beduini soprattutto nella parte meridionale della Palestina storica, nel Negev. Se con i beduini questo processo di cooptazione è andato a finire piuttosto male, migliore sorte ha avuto invece questo processo nel caso dei drusi, nel senso che le comunità druse, gli anziani delle comunità druse, questo lo scrive Ilan Pappé, insomma, diedero il loro beneplacito alla collaborazione con il nascente Stato ebraico. Di fatto si avviò, diciamo, questo processo di cooptazione attraverso la firma di un patto di fedeltà allo Stato di Israele, in base al quale i drusi avrebbero dovuto avere accesso a una serie di diritti civili e politici tali da porli di fatto quasi sullo stesso piano dei cittadini israeliani. A loro fu consentito di diciamo, non solo arruolarsi presso l'esercito israeliano, ma anche di ricoprirvi degli incarichi abbastanza importanti. Ci si ferma qui però, perché poi per il resto la storia dimostrò il fatto che chiaramente, insomma, lo Stato ebraico, così come non solo per i drusi ma in generale per tutte le minoranze, ha sempre operato in modo ampiamente selettivo, non diciamo estendendo a tutti gli stessi diritti politici e civili, e così è andato anche per le comunità druse, sebbene poi, insomma, questo principio di collaborazionismo sia stato perseguito nel tempo. Ciò fino alla guerra del 1967, quando appunto in seguito all'occupazione della Cisgiordania, l'occupazione della striscia di Gaza, l'occupazione delle alture del Golan, un po', insomma, la collaborazione e il collaborazionismo, questo atteggiamento abbastanza addomesticato, insomma, dei drusi è stato messo in discussione. Chiaramente la stessa propaganda israeliana che da allora già tendeva a dividere arabi buoni da arabi cattivi, in un certo senso ha inciso, soprattutto i più giovani, insomma, hanno iniziato comunque a recriminare sulla docilità, insomma, soprattutto delle generazioni più vecchie nei confronti dello stato di occupazione, e un po' le cose sono iniziate a scricchiolare, senza mettere però chissà quanto in discussione appunto una fedeltà da parte delle comunità druse rispetto allo Stato di Israele, tant'è che ci sono comunque deputati, insomma, che siedono alla Knesset e che ingrossano anche le fila dei partiti più di destra e conservatori di Israele. C'è un deputato druso che fa parte del partito di Lieberman, insomma, della Israel Betenu, insomma, così come deputati drusi siedono anche nell'Likud o in Kedima. La situazione invece è un po' diversa rispetto ai drusi che abitano proprio le alture del Golan, cioè le terre che sono state occupate con la guerra del giugno 1967. Fin da subito, in realtà, sia per queste terre che per Cisgiordania e Gaza, in realtà Israele, di fronte alle Nazioni Unite, tese, diciamo, a a proclamare gli abitanti di queste terre popolazioni non nemiche, in modo tale da potervi adoperare, da potervi operare in modo selettivo rispetto all'estensione della propria legislazione. Cioè, in questo modo, dichiarando quelle popolazioni non nemiche, ha potuto concedere diritti civili e politici alle comunità druse e fare invece diversamente per il resto dei palestinesi. Da questo punto di vista, immediatamente quelle comunità druse, diciamo, che abitavano le alture del Golan, si sono viste obbligate a dover accettare la cittadinanza israeliana. Quando vi fu l'occupazione, poi ci fu la guerra dello Yom Kippur nel 73, la Siria tentò di riprendersi quei territori, in realtà grazie soprattutto agli estenuanti cessate il fuoco imposti da Kissinger, che in realtà operava quasi per conto di Israele da un punto di vista diplomatico. Questo tipo di operazione non riuscì, la Siria recuperò appena un quarto dei suoi territori e iniziò, insomma, una lotta, una dura, durissima lotta da parte dei palestinesi drusi delle alture del Golan, con uno sciopero della fame che durò circa 6 mesi, proprio perché costoro rifiutavano la cittadinanza israeliana. Ora, insomma, delle proteste si sono susseguite fino a metà degli anni Ottanta. Un risentimento però profondo rispetto allo Stato di Israele, rispetto all'impossibilità di varcare i confini, rispetto allo stato di occupazione e anche alla loro condizione, i drusi delle alture del Golan non hanno mai smesso di coltivarlo, insomma. D'altra parte, non godono effettivamente di tutti i diritti civili e politici, lo ripetiamo, la politica israeliana da questo punto di vista non conosce eccezioni di sorta e opera, insomma, a seconda di come più gli pare e piace, con le minoranze che sono all'interno del suo Stato, figuriamoci nelle terre, insomma, che sono sotto regime di occupazione. Gli stessi drusi non possono accedere a tutti quanti i lavori e, insomma, ci sono delle forti limitazioni anche per loro. Quindi, diciamo, quello che è successo l'altro giorno in realtà, insomma, è qualcosa che cova da tempo, sebbene, insomma, è vero che non ci siano state spari o guerra guerreggiata negli ultimi 37 anni, ecco, questi sentimenti sono continuati, insomma, a essere presenti presso le comunità druse, e sicuramente l'abbraccio dei loro fratelli esuli palestinesi, insomma, lo ha dimostrato. Abbiamo visto delle immagini di giubilo, di festa, davvero, da un certo punto di vista, spettacolari e, ecco, storiche, per l'appunto. Mai viste prima, assolutamente. Esatto. Mai viste prima. Questo chiaramente si inserisce poi in un contesto tutto particolare, drammatico, se vogliamo, perché poi in Siria sta succedendo, insomma, davanti agli occhi di tutti, si sta abbattendo sui siriani in rivolta una repressione fortissima. Bashar al-Assad di fatto, insomma, dato fiato più di tanto alle proteste degli esuli palestinesi, anzi ha sempre cercato di limitarle, insomma, entro dei confini prestabiliti, affinché queste, insomma, non esasperassero più di tanto conflitto anche diplomatico con lo Stato ebraico. Quindi, da questo punto di vista, anche chi sostiene oggi che in realtà quella fiumana umana che ha varcato il confine delle alture del Golan il 15 maggio sia stata in realtà, insomma, indotta a farlo da una pressione di Assad, beh, sicuramente, insomma, ha preso un granchio enorme. In Italia a sostenere questo tipo di posizione immediatamente è stata Fiamma Nierenstein, ad esempio, la colonna di Gilo che siede nei banchi del nostro Parlamento. Beh, è assolutamente peregrina l'ipotesi che sia stato il governo siriano stesso a star dietro a questo tipo di scenario di forte iniziativa che si è avuta l'altro giorno. Da alcune interviste che sono uscite anche in questi giorni sui quotidiani si può tranquillamente vincere e appurare che sono stati colti un po' tutti di sorpresa. È stato colto di sorpresa Tzal, l'esercito israeliano, sono stati colti di sorpresa gli stessi governi di Damasco e Beirut, quindi da questo punto di vista sono stati colti tutti di sorpresa, una sorpresa di fronte finalmente a, diciamo, così, un nuovo tentativo di far emergere pienamente la questione palestinese, la questione del diritto al ritorno, la questione dei profughi e degli esuli. No, sono stati sorpresi anche le stesse Nazioni Unite, perché la zona che hanno attraversato, quelle centinaia di persone sbandieranti le proprie chiavi di casa e le bandiere palestinesi che cercavano di raggiungere, poi ci sono riusciti, l'hanno anche scavalcata, le prime barriere di filo che dividono appunto la zona occupata illegalmente dallo Stato di Israele, sono state appunto prese alla sprovvista le stesse Nazioni Unite. Quella è una terra, io l'ho attraversata, che non puoi visitare se non sotto scorta delle Nazioni Unite, se non per i pochissimi residenti che hanno un permesso speciale per potersi muovere all'interno del Golan. Quindi quelle centinaia di persone che abbiamo visto lì in corteo, in vari punti, perché come abbiamo visto a Majed Hasham, nel punto più settentrionale del Golan occupato, quello dove ci sono stati poi gli scontri con l'esercito israeliano e dove ci sono stati anche i morti, ce ne raccontavano due, oggi abbiamo avuto conferma che in realtà sono 8 le persone rimaste uccise al confine israeliano. Beh, non solo in quel punto del Golan è stata fatta breccia nella barriera, c'è stata anche l'intelligenza di questi attivisti, militanti, profughi, chiamiamoli come ci pare, perché c'è di tanto e di tutto in mezzo a quelle centinaia di persone che abbiamo visto. È stato appunto il far breccia in diversi punti, tanto che in alcuni sono riusciti a scavalcare a decine senza che l'esercito se ne accorgesse nemmeno, né l'esercito israeliano né tantomeno le Nazioni Unite. Una cosa che volevo sottolineare, appunto, diciamo da testimone oculare anni fa almeno di com'era quella terra, è che appunto quella rabbia di occupazione da entrambi i lati che c'è in Golan è sostenuta anche da una continua comunicazione che queste due popolazioni, questa stessa popolazione divisa da quella barriera, continuano ad avere fondamentalmente dal 73, da quando l'ultima invasione israeliana, i siriani sono riusciti a riprendersi un pezzo di Golan fino a Quneitra. Quneitra è una città, adesso museo, si chiama proprio così, il museo a cielo aperto del sionismo, proprio perché è stata una città completamente minata. Camminare per quelle strade è camminare in un cimitero di cemento e niente più, o di mucche da tre zampe, perché saltano ancora sulle mine sparse qua e là nel territorio all'intorno. Per quello anche si viaggia solo sotto scorta delle Nazioni Unite, perché parliamo di un territorio in gran parte minato. Beh, Quneitra è un museo a cielo aperto, ma i villaggi intorno a questa città abitati dalla popolazione contadina drusa sono tanti. E la cosa emozionante, io l'avevo sempre soprannominata la terra dei grandi altoparlanti. Queste sono popolazioni che si parlano da 40 anni, padri con figli, nipoti con nonni mai visti o comunque amici, si parlano da anni attraverso questi mega stratosferici altoparlanti montati su torri di 40 metri da una collina all'altra. Spesso si accendono questi microfoni, sono aperti alla popolazione. Lì c'è anche tanta demagogia siriana, ovviamente, nell'installare, e quello magari un po' dopo sottolineiamolo, nel senso che visto che ci sono decine e decine di carri armati a meno di 40 chilometri dal Golan che stanno sparando sulla popolazione civile, potete immaginare quello che stanno scrivendo in rete chi ha partecipato alle manifestazioni della Nakba l'altro giorno. Dice: se noi siamo riusciti a distruggere o comunque a scavalcare quella barriera dopo 40 anni solo con le nostre gambe e con dei pullman, figuriamoci se un solo tank di quelli che adesso stanno sparando sulla popolazione E se quel giorno ci fosse stato anche solo uno di loro, avremmo preso buona parte del Golan. Queste ovviamente sono le comunicazioni che si mandano a cuore battente a 3000 in questi giorni. Chi è riuscito a scavalcare quella barriera e riabbracciare un pezzo di famiglia e soprattutto a mettere piede sul suolo di Palestina. Leggevo l'altro giorno l'intervista di uno dei ragazzi uccisi a Majid Hasham dall'esercito israeliano. Questo fa capire lo spirito di queste persone, lo spirito di bambini di quattro generazioni cresciute in campi profughi all'interno della Siria o del Libano o della Giordania, che hanno come unico obiettivo e come unico scopo quello di assaggiare un'arancia di Jaffa, come ti dicono lì i bambini, quindi di far ritorno a casa propria. Quindi ecco, ci siamo scordati di dire, tra l'altro, che immediatamente, subito con l'inizio dell'occupazione, questi villaggi drusi, i quattro principali villaggi drusi che si trovano nelle alture del Golan, sono stati circondati da insediamenti di coloni e poi da insediamenti agricoli, i cosiddetti Moshivan o qualcosa del genere, mi sembra che si chiamino, che sono, diciamo, una variante del kibbutz. Una variante moderna del kibbutz. Esatto, una variante moderna del kibbutz, nel senso che si tratta di aziende all'interno delle quali c'è un maggiore spirito, diciamo, di intraprendenza e di autonomia dal punto di vista contabile, mentre nei kibbutz tutte le decisioni passavano per il consiglio del kibbutz. Insomma, ecco, insediamenti e aziende agricole hanno iniziato chiaramente a popolare l'intero territorio, circondando di fatto i villaggi drusi. 140 ce n'erano un tempo, oggi ne sono rimasti quattro grandi villaggi circondati appunto da coloni e aziende agricole israeliane, che chiaramente, come nelle parti di Palestina occupata, hanno cercato di svuotare, cancellare ogni residuo di memoria che potesse ricordare, insomma, nomi e toponimi dei villaggi che erano presenti un tempo. D'altra parte, ecco, per ritornare invece alle vicende odierne e alla guerra scatenata da Bashar al-Assad nei confronti della popolazione siriana, c'è da dire che tutto l'emergenza causata da una guerra sempre dietro l'angolo ha chiaramente dato la possibilità al regime di Assad di rigonfiare il suo apparato militare, di farne uno degli apparati militari più importanti di quell'area, chiaramente non potendo riversare, insomma, questa forza muscolare sul piano militare all'esterno, visto che sostanzialmente la Siria ha accettato di fatto i confini del 73, che equivalgono praticamente a quelli del 67, questa potenza militare viene riversata verso l'interno, ai danni della popolazione siriana. La presenza, cioè, dell'emergenza guerra ha dato legittimità allo Stato siriano di mantenere in piedi tribunali speciali, legge marziale e soprattutto spese militari che viaggiano sul 7% annuo, quindi cifre davvero davvero molto elevate. 87.9 FM. Estás escuchando Radio Onda Rosa. Allora, intanto un attimo di pausa, che stiamo tentando di collegarci con Londra. Maestra, che siamo tutti uguali, ma ti farò un'altra cucciana. Uno stipendio d'operaio al mese io darei a certi onorevoli e ministri puri farisei. Dovremmo essere in diretta. Pronto, ci sentite? Pronto, sì, vi sentiamo. Buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Cominciamo questa corrispondenza da Londra, giusto? Se non sei che ci stai. Non so se siamo in diretta oppure no. Sì, sei in diretta, ti si sente anche bene, i poteri della tecnologia. Quindi non posso dire più. No, adesso devi trattenere e fare la brava corrispondente. Ok, va bene. Allora, raccontaci intanto con chi siamo in diretta, così ci fai una piccola parentesi e poi iniziamo a chiacchierare. Allora, sono in diretta con Shiar, che è un compagno che vive a Londra, compagno che è coinvolto in che è un compagno siriano che vive a Londra, coinvolto in molte gruppi politici qua, come appunto Stop Deportation and No Border. E appunto oggi volevamo parlare, innanzitutto volevamo parlare della manifestazione che ci sarà venerdì prossimo, organizzata dai giovani palestinesi qui a Londra. Do you want to talk about the demonstration Friday? The demonstration that the Palestinian demonstration. Is this recording? Yeah, it's online. Yeah. Yeah, it's basically a group of Palestinians have called for demonstrations in solidarity of the Syrian uprising in a number of Arab and European cities. Allora, c'è stata una chiamata di gruppi palestinesi che hanno chiamato appunto questa una manifestazione in diverse città arabe e diverse città europee. Including Ramallah, Beirut, Cairo, and also in Paris and London. E sarà una manifestazione coordinata in diverse città, appunto come Ramallah, Beirut, Amman in Giordania e Parigi e Londra. And the main message of the demonstrations is that the Palestinian cause should not be a pressure card in the hands of the Syrian regime. Il messaggio principale della manifestazione è appunto che la questione palestinese, la causa palestinese, non può essere utilizzata nelle mani del regime siriano. And this is on Friday the 20th. E questo appunto è, sarà una manifestazione che accadrà il venerdì 20. And in London we're going to have a vigil or a small protest outside the Syrian embassy in London. A Londra stiamo organizzando appunto una manifestazione di fronte all'ambasciata siriana. And it will be basically some Syrian and Palestinian songs and poetry and a candlelit vigil. E ci sarà appunto una situazione in cui si cercherà di celebrare con di manifestare con poesie siriane e palestinesi, e soprattutto appunto è organizzata da siriani e palestinesi che vivono a Londra. And we'll see what happens because recently pro-regime thugs have been staying outside the Syrian embassy and preventing anti-regime demonstrations. E vedremo appunto che cosa accadrà, perché a molte persone siriane che vivono a Londra e che sono pro del regime siriano stanno presidiando l'ambasciata siriana affinché appunto non si facciano delle manifestazioni contro il regime e in supporto delle manifestazioni delle sommosse che ci sono in Siria in questo momento. Faccio una domanda. Why do you think the Palestinian cause is a pressure card for the Syrian regime? La domanda è appunto perché lui pensa che la causa palestinese sia utilizzata dal regime siriano? Yeah, well, the Syrian regime has for years and years been supporting the different Palestinian groups, many of whom have their headquarters in Syria. Il regime siriano ha supportato per diversi anni alcuni palestinesi, alcuni gruppi palestinesi che appunto sono anche based, che vivono in Siria. And use them in its proxy wars against Israel and the West to maintain its position as a regional player. Allora, questa è una cosa importante, perché lui dice che questi gruppi palestinesi nelle mani del regime siriano vengono utilizzati appunto come gioco di potere all'interno delle relazioni internazionali del Medio Oriente, e soprattutto come equilibrio fra il regime siriano e Israele. E infatti, guarda, su questo vi volevo solo dire una cosa: probabilmente lui l'avrà letta, ma c'è un sito che va seguito, perché ovviamente è voce del Mossad, che è Debka File, che è un sito appunto di informazioni politiche o militari dell'istituto del Mossad. Ci riferisce appunto che Rami Makhlouf, che è cugino del presidente Bashar, ha ufficializzato un po' questo timore, cioè ha minacciato ufficialmente di muovere guerra ad Israele o comunque di finanziare con armi per attentati alcune fazioni in Cisgiordania, proprio per iniziare un qualcosa contro Israele, che faccia da pressione appunto a Stati Uniti e Europa a star fermi nell'appoggiare le rivolte in corso in Siria, quindi proprio come gioco strumentale di potere. E questo lo riferisce appunto una voce che purtroppo va ascoltata, perché più che informata, che è quella di Debka File. She's talking about exactly what you were saying before. So, tu hai letto le dichiarazioni di Rami Makhlouf, cugino del presidente? Cioè, nel senso che there was this interview in the New York Times. C'è stata appunto un'intervista nella New York Times. And he basically said that the stability of Israel is linked to the stability of Syria. So basically warning. Lui dice appunto che lui ha detto che la stabilità di Israele è direttamente proporzionale alla stabilità del regime siriano. So basically warning the Western powers that if you mess with us, we will mess with you. You know, we will use the Palestinian card to destabilize Israel. Allora lui dice proprio questo, quello che ha dichiarato è proprio che se voi fate guerra a noi utilizzeremo la causa palestinese contro di voi per destabilizzare appunto le relazioni dell'Occidente, dei paesi occidentali con i paesi del Medio Oriente. And the background of this is that the Syrian regime has been trying to negotiate with Israel through Turkey and in secret talks as well to finally sign a peace deal as the last Arab country that hasn't signed an agreement with Israel. Allora, lui dice che appunto poi ci sono state anche delle relazioni internazionali che non sono state palesate con appunto la Turchia e che what you were saying about the international the sign with Turkey. Yeah, they were having peace negotiations in secret or not very secret through Turkey. Allora, loro dice che stavano avendo delle relazioni, stavano cercando di avere questi incontri più o meno segreti per firmare una relazione di pace attraverso appunto la Turchia. Sì. Scusate, non sapevo se mi sentivate. C'è anche un'altra cosa a livello di poteri internazionali, secondo me, da sottolineare, che ovviamente non esce sulla nostra stampa. Da un paio di giorni si dice che Khaled Meshel, che ci sia un accordo tra Egitto, Siria e Gaza, quindi tra il Fatah e Hamas, proprio per, diciamo, sottolineare l'accordo che è stato firmato al Cairo. Si comincia a vociferare ufficialmente che l'Egitto appoggerà l'uscita di Khaled Meshel, leader politico di Hamas con sede a Damasco, da Damasco, proprio fondamentalmente dicono per sanzionare, per appunto sancire. Dimmi. Una cosa, perché sto cercando di tradurre. Ah, ok, scusa. C'hai ragione anche tu. Dato che comunque sono questioni anche molto che sono questioni anche molto delicate, oltre al fatto che non sono appunto palesate nella stampa, nel mainstream italiano, ma come anche come internazionale. Internazionale, come anche nella stampa inglese. Comunque, secondo me c'è un po' da sviscerare, da sottolineare, che questa è una domanda che secondo me è importante, quella che stai dicendo. Sì, vai. Ok. I think a lot of the Palestinian factions felt that the Syrian regime was ready to sell them when they get to a difficult position to compromise with the US and Israel, and they have done that before with a lot of other, for example with PKK and Abdullah Öcalan, when it was too difficult for them to support him or host him in Syria, they sold him and he was arrested, and the Palestinians. Allora lui dice questa cosa, come è successo per Öcalan, per la questione curda, che appunto era ospitato nello Stato siriano, che a un certo punto l'hanno venduto perché appunto non riuscivano più a portare avanti quel tipo di politica. Così possono, così cioè, è possibile che sia fatto anche per i palestinesi che vivono in Siria in questo momento, proprio per appunto perché non si riescono ad affrontare quelle relazioni internazionali che appunto con US e Israele, con gli Stati Uniti ed Israele, e che possono quindi appunto cercare di undermine, che possono in qualche modo avere delle problematiche con la politica internazionale siriana. And that's why I think they started to move away from Syria, and now at least Hamas are moving their headquarters to Egypt, to Cairo. Ed è per questo che perché secondo lui Hamas sta portando la sua attenzione verso l'Egitto, perché appunto si cerca in qualche modo, cioè, perché hanno capito questo tipo di dinamiche. È anche il contrario, poi, secondo me, cioè l'Egitto che vuole anche tornare a diventare protagonista all'interno dell'arena palestinese. The opposite way that Egypt want to be the protagonist. Probably both. Sì, certo, entrambi, sono d'accordo. Infatti anche secondo lui molto probabilmente sono entrambe le cose. But the point is that it's, of course, we all support the Palestinian cause, but when it's used by a repressive regime to justify repression against its own people, then it's not acceptable. And this... Wait. Allora lui dice non è accettato comunque il fatto che la causa palestinese venga accettata come appunto carta per reprimere il popolo siriano. Why do you think is a pressure camp for the repression of the Syrian regime? I mean, you can see over the years Syria has always used, you know, had a lot of control over how especially Hamas and Jabhat al-Shaabiyya, Ahmed Jibril people and a few factions, you know, they had a lot of say on what they did and when and how they did things. And because they were supported by Syria, not just politically and, you know, having them in Syria, but also in terms of, I suppose, money and weapons. And more Palestinians are now realizing this, that you cannot build your whole legitimacy on, because the regime has lost all its legitimacy in the eyes of the Syrian people. But do you think so? What happened in Golan, for example, is linked, but at the same time it's also important for the people, hundreds of people across the borders. Lo traduco fra un po', eh? Prima o poi fallo. Sì. Lui dice che negli ultimi, non solo negli ultimi anni, ma da diversi anni i palestinesi che vivono in Siria vengono utilizzati per reprimere o comunque vengono utilizzati per i giochi di potere del governo siriano. Quello che appunto quello che è successo appunto in Golan è una relazione molto, cioè che è linkato in qualche modo con quello che sta dicendo, proprio perché appunto da una parte è vero che è importante, ma dall'altra il governo siriano comunque ha giocato molto nello spingere una manifestazione del genere, tanto che è stata questa la prima volta che il governo siriano ha permesso la manifestazione in quel tratto di terra. Beh, però lì è il territorio delle Nazioni Unite, quindi probabilmente, cioè nel senso, sì, questo è vero, perché per entrare verso il Golan serve un lasciapassare siriano, però stiamo pure parlando di un territorio che sta a 40 chilometri da Dara, l'esercito siriano sta facendo altro in quella zona. Fondamentalmente sono le Nazioni Unite che sono dovute rimanere in... The demonstration in Golan is a clear picture, but she said. Quella è no man's land, tutta quella dove loro sono passati è no man's land, sotto Nazioni Unite. That land belongs to the UN right now. People have been mobilizing and preparing for you know, a mass return to Palestine and the occupied territories, and of course, everyone supports this, but the timing and some facts on the ground of what happened kind of indicate if it wasn't totally orchestrated by the Syrian regime, then it was at least used by the Syrian regime for another agenda. Ok, lui certo, dice certo. Questo è vero che appunto si sta cercando di mobilitare più gente possibile per la causa palestinese, e che ovviamente non è detto che appunto le manifestazioni sono state orchestrate o architettate da regime siriano, ma che siano strumentali, certo, questo ho capito. In questo momento le stanno utilizzando per i loro obiettivi politici. Can I talk about these facts? Sì. Yes. According to Palestinian sources, the Palestinians who went from Syria to secondo alcune risorse palestinesi, le news agenzie palestinesi. The Palestinians who went to Majd al-Shams from Syria were from two Palestinian factions close to the Syrian regime, and the biggest factions, Hamas and Fatah, were not involved with this. They actually refused to participate. Well, was that the Questo è importante, traducicelo. Sì, no, infatti, cioè sto cercando di allora appunto. Lui dice che secondo alcune agenzie palestinesi ci sono due fazioni molto palestinesi vicine al regime siriano, in cui appunto Hamas e Fatah non sono coinvolti in questa organizzazione di queste manifestazioni. And also the second point is there were Syrians among them, and some were armed with Kalashnikovs. Allora, e molte nell'organizzazione appunto c'erano molti palestinesi insieme con i palestinesi e molti siriani. Appunto, dei siriani avevano delle persone siriane avevano dei Kalashnikov. There was a video on YouTube posted yesterday on YouTube showing clearly that some of them had Kalashnikovs on them, which gave the Israelis another reason to shoot on people. Infatti proprio ieri è stato pubblicato un video su YouTube che faceva vedere molte persone nella manifestazione del 15 di Majd al-Sham, sì. Sì, con i Kalashnikov, e questo ha dato motivo agli israeliani appunto di un motivo in più, ovviamente non certo il solo motivo, di sparare contro le persone. Senti, una domanda, perché lui ha specificato che queste due fazioni, e quindi questa cosa dei Kalashnikov, quindi della presenza di armi alla manifestazione, era a Majd al-Sham. Facendo un attimo un sunto, so breve, almeno traduci, dei video che abbiamo visto, ci sono i video di Majd al-Sham dove si vede l'esercito israeliano spiegato, e dove ci sono quindi scontri, quelle sono state chiare, le abbiamo viste tutte. Ci sono altri video dove si vedono altri punti, io credo che uno sia la zona di Ain Tina, poco sopra Quneitra, dove la gente entra, lì Israele non c'è. E allora mi chiedo, sono due fazioni diverse, due corsie? C'è un altro punto del Golan, sì, a sud di Majd al-Sham, dove ci sono tanti video, quelli più belli, diciamo, perché non ci sono forze sicurezze israeliane, quindi la gente riesce a scavalcare, malgrado gli urlino da di là, no, perché hanno paura che tutto sia minato. La gente scavalca, entrano almeno 150 persone, si vede nel video. Lì nessuno è armato e nessuna risposta. Abbiamo visto anche allora, noi, visto che tu mi dici questa cosa, cioè del fatto che a Majd al-Sham c'erano queste due fazioni palestinesi e basta, allora mi chiedo, l'altra manifestazione era organizzata da qualcun altro? No, lui dice ha parlato anche di persone siriane comunque, però traduco quello che ha detto. She said that the demonstration were spread around the borders. It wasn't only in one part of the border. In one part where people were shouting, but the other part has we were seeing yesterday, they crossed the border hundreds of people. Yeah. And she said you were talking about the demonstration were organized by this faction plus Syrians, yeah, but there were also people from you know, from per capire se ci sono due piattaforme, capito? Se, o se erano manifestazioni, cioè così, è proprio una domanda. It could be. Of course, there are many people who would want to go and cross the border and go back to their homes, and they are very, you know, enthusiastic and passionate about this. But it doesn't mean that they were not used somehow by the Syrian regime, because we should remember also for 44 years since 1967, no one can even reach the border without permission. Hours. Yeah. So there must have been some coordination with the Syrian security forces, because, and you can see in that video that they were going through a Syrian checkpoint and the Syrian. But there's a turning point as well of the war up in between the Israel and Syria, yes. Or the Palestinian. Quello che dice, sì sì, assolutamente, cioè le persone sono quelle che comunque fanno che hanno fatto le manifestazioni che sono successe il 15, e ovviamente c'è molta gente che dal 1967 sognava di tornare a casa, ma certo la genuinità di buona parte di quella protesta è sacrosanta, è innegabile. Quello che lui invece voleva appunto cercare di capire è poi qual è poi il futuro di queste manifestazioni, e soprattutto come poi vengono utilizzate dal potere, perché appunto la questione anche rispetto alla Palestina, cioè noi vedevamo ieri sera alcuni video o anche nei giorni passati, e lui mi traduceva appunto alcune delle cose che venivano dette, e molte delle cose che venivano dette era: non ho paura di mettere il mio corpo e di farmi ammazzare per la causa palestinese, o per riprendermi la terra. And for 44 years the Syrian regime was basically protecting the illegal borders of Israel, and now they've changed their position because it's the last card they are playing to put pressure on Israel and Western governments to not interfere in Syria, which is similar to Okay, this is very important. Lui dice il regime siriano per 44 anni ha protetto i confini con Israele, e questa è... Ci sono le Nazioni Unite, però, ha protetto i checkpoint tra Siria e No Man's Land, no, tra Siria e Israele, non esiste un confine tra Siria e Israele. UN, of course. No, but on the Syrian side there are checkpoints and you are not allowed to go anywhere near there without permission. Lui dice che comunque dalla parte siriana ci sono checkpoint e tu non hai il permesso di andare da nessuna parte senza che passi quei confini. Quindi, cioè, secondo quello che appunto lui dice, è può essere utilizzato questo per fare pressione del governo siriano ai governi occidentali e israeliani, per dire: guardate che se rovinate in qualche modo la nostra stabilità, per far vedere anche la forza del governo siriano. Quindi sono strategie comunque di potere. And using this card now is quite similar to what Gaddafi did in Libya by threatening European governments that I will allow all African migrants to cross the sea and flood Europe. And that's why there was an increase in the number of migrants reaching European shores, and that kind of frightened the EU. E questo è un po' quello che è successo anche in Libia con Gheddafi. Quello che utilizzava Gheddafi era proprio: allora voi utilizzate la Libia come confine per i migranti, i migranti dall'Africa, per le persone che vogliono passare il confine con l'Europa, e adesso io in qualche modo utilizzo queste, apro i confini per far vedere appunto che quanto è importante il ruolo del governo libico. Questo è quello che in qualche modo sta facendo anche il regime siriano. Senti, facciamo una cosa, proviamo a dimenticarci un po' della Nakba, anche se è difficile, cerchiamo di rientrare un po' nei confini siriani solamente, non quelli occupati, anche perché tra un po' dobbiamo passare i microfoni. E io appunto volevo un po' sapere, visto che è ovvio lui ha una facilità linguistica che gli permette di accedere alla totalità delle fonti che girano in rete, qual è... Anche perché, voglio dire, cioè, anche quello che sta succedendo in Siria lo tocca personalmente, immagino, voglio dire, comunque non è potuto rientrare per 9 anni, il che significa che per 8 anni, il che significa che appunto appunto io volevo chiedergli un po' se ci racconta il livello di repressione che porta avanti Assad e il suo partito, quindi se ci fa un po' un racconto, non ti dico di quello che sta succedendo perché non gli chiedo così tanto, visto che ci dovrebbe fare un sunto di 3 mesi di rivolta e più, però insomma almeno della non so di chi è questa popolazione in rivolta, che cosa ci può raccontare più di quello che riusciamo a leggere? The question is about the Syrian uprising, but if you wanna point out some good points about the Syrian uprising, but also if you want to Before we move on, just add one point about the dice se può appunto certo. L'ultimo punto. I just read this morning a report from it's attributed to US and the French intelligence sources, and it was saying that the Syrian government is preparing to mobilize tens of thousands of Palestinians and Syrians for the 4th of next month. Which is the anniversary of the occupation of the Golan Heights. Allora, aspetta un attimo, secondo appunto un report che ha letto questa mattina e che appunto proviene da intelligence della francese e statunitense, si dice appunto che il regime siriano sta organizzando the Syrian regime mobilitando non ridete molte persone palestinesi e siriani per il dice milioni di persone, così 10.000 qua dice 1.000 persone per il 4 giugno del prossimo mese nella Golan. And the Israelis have there are reports that the Israelis have started to put more barbed wire on the borders and also dig up canals and fill it with waters to prevent people from crossing the border. E che appunto il regime siriano sta organizzando, sta preparando sta rinforzando i confini del Golan con molta più militari che con come si chiamano i fossi con dell'acqua per prevenire comunque le persone, per fare in modo che le persone non passino il confine. E questa è appunto è una cosa che ha letto questa mattina. We will pass because it's a bit late. We should talk about the Syrian uprising okay. Allora, casomai gli faccio una domanda diretta, visto che si parla tanto, secondo me male, della troppa ingerenza occidentale in queste rivolte, cioè del fatto che una rivolta siriana, quindi una caduta del potere del partito Baath e di Assad, sia l'apertura a un'occidentalizzazione della Siria, quindi un'uscita dall'asse del male Iran, Hezbollah, Siria. E allora volevo appunto chiedergli se secondo lui l'esplosione l'esplosione di questa rivolta viene più dallo spirito di Piazza Tahrir, cioè dall'emulazione, che insomma vorrei, sfido chiunque a non volerlo fare in Medio Oriente, cioè di una rivoluzione popolare come è stata in Tunisia e in Egitto, poi come sono andate è un altro discorso, o c'è tanta tanta pressione occidentale, o sono entrambe le cose che sono strumentalizzabili, insomma come la pensa? Is about the pressure of the Western countries, or also is the emphasize that the entire square and the people that want the Syrian regime is. Yeah, I mean there are few very few important points. The first is that the Syrian context is very different from the Egyptian context, and I don't think we can compare Syria with Egypt. We can more compare Syria with Tunisia. Ok, lui dice ci sono alcuni punti da sottolineare. Innanzitutto che non possiamo comparare il regime siriano con quello egiziano, ma ci sono però invece piuttosto delle similitudini con la Tunisia. First, the Syrian regime is much more repressive and violent than the Egyptian regime. Innanzitutto il governo siriano è molto più repressivo e c'è molta più repressione che in quello egiziano. And second is that over the last 20-30 years there has been no strong movement, political or workers' movement or class-based movement in Syria. Un'altra cosa è che negli ultimi 20-30 anni non c'è stato assolutamente nessuna sommossa, nessuna manifestazione o nessun movimento operaio o di qualsiasi altro tipo di movimento da basso in Siria. Whereas in Egypt, at least since 2008, Kifaya and other grassroots movements have been mobilizing and Kifaya and holding continued protests and demonstrations that kind of built up to the main uprising in Tahrir Square. Allora, in Egitto dal 2008 comunque ci sono state delle organizzazioni, il popolo egiziano si è cominciato a mobilizzare che poi appunto è stato un'escalation fino alle ultime mobilitazioni. So there were political powers and there were students and workers involved in Egypt. That's why it happened in the urban centers. In Egitto appunto ci sono ancora studenti o comunque movimento dal basso, ma anche c'è stata anche una forte spinta dalle parti politiche che ha permesso appunto le varie mobilitazioni. Talk about Syria and how. So in Syria it started and it's still everything that's been happening has been on the peripheries, both geographical and socio-economical. Allora, mentre in Siria quello che da quando si sono cominciate a mobilitare le persone, comunque sono mobilitazioni che avvengono nelle periferie, nelle città più periferiche, sia per quanto riguarda a livello geografico, ma sia anche di condizioni o di soggetti socio-economici periferici, in qualche modo marginali. Which might be better, I think, or worse, depends on how you see it. Because it means also it's less organized and people self-organize now and they start to build alternatives. Che può essere meglio o peggio in qualche modo, perché da una parte c'è più auto-organizzazione del movimento, o comunque c'è una spinta che proviene soltanto dal basso, soltanto in questo momento la gente si sta auto-organizzando in maniera più non disciplinata, ma in maniera più strutturata. Yes. And And there is also in Syria, because the regime represents all the evils, so there isn't much separation between economic and political issues. And the main target is now just to change the regime, and that kind of implies economic issues and political repression. And che appunto la parte sia economica, cioè il movimento che c'è in Siria, le sommosse che ci sono in Siria hanno l'obiettivo sia politico che economico, non c'è una divisione in questo, perché appunto il regime siriano è in questo momento l'obiettivo è soltanto far cadere il regime siriano. And in terms of what will happen next and what's happening, I think different protests in different cities are still, or towns are still kind of isolated, and people have been trying to network, and there is the first time now a call for a general strike on Wednesday. Le rivolte che ci sono, che sono sparse in tutta la Siria, stanno cercando di avere più connessione l'una con l'altra, però sono ancora molto isolate. Perché appunto non c'è molta comunicazione. Per la prima volta mercoledì ci sarà uno sciopero generale. And despite the symbolic support, you know, whenever something happens in one city, all the other cities will go to protest in support of it. But this is more symbolic. There is no still real networking and organizing between the different parts of the country. Lui dice che appunto è molto più simbolico l'obiettivo, c'è un obiettivo ovviamente comune, ma non c'è un'auto-organizzazione forte, un network forte che possa unire tutte le varie lotte sparse per il paese. So now people are realizing, and that's made it easier for the regime to isolate places and heavily repress them. E questo è ovviamente molto utile al governo siriano, che isola le proteste e reprime, e ha una forte repressione in questo. What about the repression that will catch up the people? Yes, there has been, I mean, the military is now involved, or at least one battalion of the, you know, headed by the Syrian president's brother, Maher al-Assad. Adesso gli ho detto se parlava della repressione, ovviamente lui ci ha nominato il numero uno della repressione, ovviamente ha nominato il numero uno della repressione, ma perché appunto una parte dell'esercito il quarto reggimento dell'esercito siriano è comandato direttamente dal fratello di Bashar al-Assad, Maher. Yes, and what they've been doing, the recent wave of arrests, they've been arresting people, putting them in temporary detention camps, and torture them for a week and then release them. And I think the main reason for this is they want to frighten people, and they want them to tell others to scare them off. Allora, quello che stanno facendo è prendere le persone che appunto sono maggiormente coinvolte nelle manifestazioni, portarle in campi di detention center, in centri di detenzione, in prigioni speciali, che li tengono lì per una settimana, li torturano per una settimana e poi li rilasciano. Questo perché quello che vogliono fare è appunto cercare di far spargere la voce della repressione, quindi di in qualche modo, certo, di impaurire, di terrorizzare le persone che stanno organizzando manifestazioni. Yeah, thousands and thousands of people have been arrested, some of them actually activists and involved, and you know, involved with things, some of them just normal people who happen to be there. Allora, quello che dice è che mila persone adesso sono state prese dalla arrestate, e molte ovviamente sono coinvolte nell'organizzazione, ma altre persone ci sono moltissime persone che hanno soltanto partecipato alle manifestazioni che ci sono state. Beh, da quel che gira, anche non solo, nel senso che ad esempio ad Homs e a Dara 6 giorni fa sembrava stessa, cioè casa per casa, non sembrava, si rastrellava casa per casa sopra i 15 anni, sì, insomma, ovviamente non sempre, non in ogni villaggio, ma la repressione ha, cioè, a livelli pesantissimi. Just participated at the demonstration, but people that relate. And they did that now in Banias and Homs and other cities. E hanno fatto anche, cioè, di appunto ti dava ragione, diceva che appunto non soltanto in Dara ma anche in altre città della Siria. But I think more people are now realizing that unless the uprising moves to the centers of big cities and disrupt normal life, it will continue like this for I don't know how much longer. Quello che dice è che secondo appunto la cosa che stanno realizzando le persone che stanno cercando appunto di organizzare le rivolte è che si devono in qualche modo le rivolte si devono spostare dalla periferia alla grande città, cercando appunto di distruggere, di rompere la vita quotidiana, perché in caso contrario la repressione continuerà così, la dinamica continuerà in questo modo e non si sa per quanto tempo. So I think over the next few weeks if there is an escalation in the resistance, like in universities and workplaces and factories etc, there will be also an escalation in the repression. But that will actually move up to another serious, more serious level, and that might be the end of the regime. Le prossime settimane potrebbero essere appunto decisive, perché se le manifestazioni e le rivolte continuano all'interno delle università e all'interno delle industrie, quindi con degli operai e degli studenti, questo potrebbe portare ovviamente ad una maggiore repressione, però ad un altro livello della rivolta e della rivoluzione siriana in qualche modo che c'è in questo momento. And the other important thing is that I think almost just about everyone apart from a few parasites, everyone in Syria doesn't want international intervention, and they are very anti-American. Can you repeat again? Yeah, I think just about everyone in Syria has very strong nationalist feelings, and they are anti-American and anti-Western intervention, so it wouldn't be the same as Libya. And on the other hand, also Western powers have said they don't want to interfere in Syria because partly because there is no oil interests like Libya, but also because geostrategically it's a very sensitive country, like because of Israel and Iran and Lebanon and Syria, they wouldn't directly interfere. Allora, questa è una cosa che è legata alla domanda che facevi tu precedentemente, appunto, in che modo in che modo gioca la dinamica occidentale dei paesi occidentali, e lui dice non ci sarà, e come non c'è stato finora un forte intervento delle Nazioni Unite e dei paesi occidentali, proprio perché strategicamente la Siria è, a livello proprio geografico non è un paese che su cui poter in qualche modo legare troppo, perché appunto con l'Iran e altri tipi e altri paesi, e dall'altro perché comunque la gente è molto la popolazione siriana è molto sia nazionalista che appunto anti-Western, anti-Occidente, e quindi non vuole in qualche modo un'interferenza così forte lo è stato per esempio con la Libia, con i paesi occidentali. Sì? Sì. Ah no, all'improvviso non ti sentivo più. Senti, calcolando che tra poco dobbiamo chiudere, gli volevo fare al volo un'ultima domanda e poi siamo costretti a salutarci. Io gli volevo chiedere appunto, Hassan Nasrallah, il leader degli Hezbollah, ha impiegato quasi 3 settimane ad aprire bocca in favore, o comunque in sostegno al popolo di Piazza Tahrir, quindi alla rivolta egiziana. Ci ha messo tanto, però si è schierato, cioè, quindi tutti aspettavano le parole di Hezbollah per capire qual era la sua linea, poi alla fine sono arrivate dopo molto tempo e a favore, anche se timido, della rivolta egiziana. Per quanto riguarda la Siria invece, Hezbollah ha parlato dopo 3 minuti dai primi scontri e si è schierato drasticamente con le truppe, le forze di sicurezza, il potere del regime siriano. Cambierà idea? È un asse che non si staccherà mai. Come mai? Cosa ne pensi? So why? I think because, I mean, obviously Hezbollah is supported by the Syrian regime and it's one of its last supporters, but I think more importantly that Allora, una cosa principale è che appunto Hezbollah è supportato dal regime siriano, che appunto è uno degli ultimi che supporta. But I think also Hezbollah feels that it might be losing the Syrian support, which is very crucial. I mean, also the Iranian support comes through Syria. So they were feeling that. This is my what I think. They were feeling that they were already being sold by the Syrians, especially after Imad Magniyeh, one of the leaders in Hezbollah, was assassinated in Damascus. So they felt that the Syrians, in their peace talks with the Israelis, might be selling Hezbollah. Yeah, wait a moment. Otherwise, I'm gonna die. Okay. Lui dice che innanzitutto appunto per Hezbollah è cruciale, è importantissimo sia il supporto siriano, perché appunto è legato con il supporto del regime iraniano. E what you were talking about the so they've been feeling that the Syrian regime might be selling them. La cosa che appunto stavano capendo che il regime siriano poteva in qualche modo vendere Hezbollah, e questo ha fatto in modo che loro rispondessero subito e dichiarassero esplicitamente una relazione con especially after one of their commanders was assassinated in Damascus. Soprattutto dopo che uno dei commandos di Hezbollah sono stati uccisi in Damasco. So I think the Hezbollah last year. Ok, e questo è successo lo scorso anno. So I think the Hezbollah leadership unfortunately made the choice to maintain its support of the Syrian regime to keep them on side. Sì, e questa è stata appunto la decisione, la principale decisione per continuare ad avere dalla sua parte il regime siriano. So because Hezbollah, I think, is afraid that it will be isolated and crushed by the Israelis and the Lebanese army. E quello che più appunto di cui ha più paura Hezbollah è che viene in qualche modo crush. Cioè viene definitivamente isolato e rischia appunto di essere cancellato da Israele, certo, certo. Senti, io sono costretta a salutarvi. Nel salutarvi vi dico che neanche 10 minuti fa sono iniziati pesanti scontri ad Aleppo tra studenti e forze di sicurezza. Sono usciti dall'università, ci sono più di 350 arrestati e svariati feriti, quindi speriamo che sia un altro piccolo passo verso quello che dicevi tu, cioè il portare al centro delle città più importanti una rivolta periferica. Stiamo parlando della seconda città più importante della Siria e adesso sono in tanti in corteo a scontrarsi con le forze di sicurezza di Bashar. Quindi vabbè, tu traducigli questo, tanto adesso se lo andrà giustamente a leggere. Ci salutiamo, noi facciamo una chiusura. Io spero che in qualche modo appunto se sia fatto una cosa... cioè che abbia in qualche modo contribuito alla trasmissione e saluto ovviamente tutti e tutte che sono all'ascolto. E noi vi salutiamo voi e mandiamo quella canzone che ci avete richiesto come chiusura, e intanto ci risentiamo al più presto. Un abbraccio e buona manifestazione per venerdì a Londra. Grazie. Ciao, ciao. Ringrazio, ciao. هو الوطن يخبئ فينا عشقه الأزلي فتنضح الأحجار بالحكايا والتراب التراب كم من دماء طهرته على مذبح الحرية الظلام 30 minuti, torniamo un attimo in diretta. La canzone che ci avevano richiesto si sentiva bassissima, quindi sono stata costretta a cambiarla. La trasmissione si è prolungata molto più del previsto, quindi chiediamo scusa allo spazio rubato, a chi doveva entrare in voce alle 12. Su molto di quello che è stato detto ci sarebbe da discutere un bel po', è stato anche un po' complicato visto la traduzione, la lontananza, il poter controbattere a alcune cose. Yeah. chiudo qua. Sì, dovremmo esserci in diretta, cioè appunto come dicevamo non siamo riusciti molto a controbattere a tante cose dette, ma il telefono squilla perché controbatte poi con noi. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Dicevo già in privato che questa comunicazione è quantomeno, come dire, estremamente problematica e francamente non sempre comprensibile. Nella misura in cui si sostiene che appunto il regime siriano eccetera repressivo eccetera eccetera che da 100 anni che ha fatto dell'Al-Zatar eccetera eccetera, cioè chiaramente stragi contro i palestinesi e così via all'epoca, molto tempo fa, però in questo momento vede la presenza nella sua capitale di elementi di formazioni politiche che, giusto per non far nome, Fronte Popolare e Liberazione Palestina, che fino a qualche tempo fa sono stati interlocutori dei movimenti antagonisti anche nel nostro paese. Per cui le affermazioni generali fatte dal corrispondente da Londra appunto indicavano come l'utilizzo sia in atto e la manifestazione del 15 scorso sia stata manifestazione piegatante, un utilizzo strumentale da parte diretto da parte del regime dei palestinesi presenti in Siria per deviare l'interesse generale internazionale sulle difficoltà attuali del regime. Per cui sostanzialmente lui sostiene che, cioè, dico, a meno che uno faccia un minimo di chiarezza e dà dei nomi, cognomi, delle responsabilità eccetera, allora dice che non i palestinesi ma forse qualcuno, e identifica forze politiche, economiche, cioè chi gli appare a lui, ma detta così significa, cioè evidentemente invece è una operazione che mi pare a occhio e croce di diffamazione totale, insomma, dico, di qualcuno che mi pare che ci abbia quantomeno qualche così, diritto di rivendicare una minima di coerenza di linea politica. Sulla questione delle citazioni del Mossad, io francamente starei un pochino attento, insomma, fermo restando che nessuno è per i regimi familiari e i satrapi di nessun tipo, però francamente mo il Mossad, se è utilizzabile, dico, dentro un cioè le posizioni del Mossad sono utilizzabili dentro un quadro analitico di qualsiasi tipo, vuol dire che vabbè sono cambiati tutta una serie di riferimenti, che mi pare che la cosa non sia assolutamente accettabile, una storia di questo genere. Dire che non ci stanno interessi occidentali in Siria perché in Siria non c'è il petrolio significa dire una stronzata assolutamente clamorosa. Manco il petrolio non c'è manco in Tunisia, insomma, no? Ma su quello guarda, sfondi una porta che qui eravamo un attimo, no, insomma, è più che geograficamente importante, capito? Forse più della Libia, sì, la Siria non mi fate andare avanti con altre considerazioni, però appunto, cioè capire del movimento spontaneo, ho detto, stava di prima, è una notazione così di cronaca, no? Però è uscito su Sole 24 Ore, c'è stato un signore negli Stati Uniti che ha spedito una ditta che ha spedito 400 satellitari in Siria appena alle viste di certi movimenti. Mo io non voglio assolutamente, mo non lo rovesciamo la frittata, insomma, no? È tutto strumentale. Quello che è sicuro che allo Stato prima c'è stata una rivoluzione arancioni, verdi, a pallini eccetera eccetera, ma c'è stata una rivoluzione dei margherite, dei gessomini, dei gerani appassiti eccetera eccetera, mi pare che sia prevalente in tutta questa storia. Poi la rivoluzione, mettiamoci d'accordo, che vuol dire rivoluzione? Cioè se c'è l'abbattimento in corso dei... Noi abbiamo usato sempre la parola rivolta, mai rivoluzione, su questo non mi... vabbè, guarda, la faccio finita qui, però credo che una serie notevole di puntualizzazioni siano assolutamente necessarie, perché se no, dicevo, ho sentito di tutto questi giorni e va peggiorando la situazione. Mi pare che ci sarebbe da riflettere parecchio su quello che è il contesto generale, di intervenire su come sta il movimento antagonista in Italia, discutere sui rapporti con le organizzazioni sindacali ufficiali, ufficiose o meno, mo pure su queste questioni internazionali così, mi pare che stiamo proprio, chiudiamo ragazzi, comunque. Scusate tanto. Ciao Peppe. Bene, vabbè, è chiaro insomma che comunque su una serie di aspetti che abbiamo potuto ascoltare dall'intervista con questo esponente attivista politico di stanza a Londra, siriano, e, insomma, le facce qui in studio rispetto a certe affermazioni erano comunque fortemente sbigottite. È chiaro insomma che dell'uso strumentale della causa palestinese da parte siriana, insomma, questo qui si è confermato storicamente, in modo particolare in alcuni frangenti, in occasione ad esempio dell'invasione del Libano da parte della Siria, in molte occasioni opportunisticamente e cinicamente la Siria ha sfruttato il conflitto arabo-israeliano per avere posizioni di egemonia di Damasco a livello regionale nell'area. Lì in Libano addirittura c'era una sorta di piano per impadronirsi anche della dirigenza dell'OLP, cercando di favorire insomma le guerre intestine all'interno dell'OLP tra Arafat e altre componenti. Ma insomma, che ci fossero questi piani di carattere nazionalista da parte di Assad, del padre e oggi del figlio, insomma, è abbastanza chiaro. Noi avremmo voluto sottolinearlo forse di più, insomma, ma a un certo punto ci sembrava anche il caso che l'interlocutore parlasse della situazione insomma in Siria. D'altra parte, lo dicevamo anche prima della telefonata, e questo magari, ecco, Peppe forse non l'ha ascoltato, insomma, ma dicevamo proprio introducendo la telefonata che anche attraverso articoli che sono usciti sulla stessa stampa israeliana, il quotidiano progressista, diciamo così, Haaretz, ha intervistato l'analista Zvi Barel, che ha fatto notare quanto sia l'esercito libanese quanto quello siriano, impegnato in questi giorni nella repressione della protesta contro il regime, sembrano essere stati presi di sorpresa non meno di Chal. Queste sono in sostanza le dichiarazioni di questo analista comparse su Haaretz l'altro giorno, il che vuol dire che praticamente l'azione, che tra l'altro è stata operata in diversi punti insomma ai confini tra Libano, Siria e Giordania e Israele, è stata condotta secondo uno spirito fortemente, come dire, indipendente, auto-organizzato da parte dei compagni palestinesi, degli esuli palestinesi, che chiaramente hanno cercato di porre l'attenzione su una questione, quella del diritto al ritorno, sempre cancellata dai media a livello internazionale. Questo però noi l'avevamo detto proprio all'inizio, insomma, per cui è anche questo il motivo che ci ha fatto un po' soprassedere rispetto alla telefonata, per poi magari integrare successivamente come stiamo facendo adesso. Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900. Oye, te hablo desde la prisión Wilson Mangioma Gorgona. Para mí